No, dei comuni alla bozza per il federalismo municipale. La Lega insorge. Bossi, andiamo avanti. Chiamparino chiede di aprire un tavolo. A sostegno dell'esecutivo arrivano i responsabili. Formalizzato il nuovo gruppo che appoggerà Berlusconi. La BCE avverte, la crisi del debito non è superata, i timori ora investono Italia, Spagna e Belgio. Sci colpisce ancora la maledizione di Kitzbühel, caduta in prova per Hans Gruger e grave in ospedale. E buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Arriva una nuova tegola per la maggioranza, questa volta tutta politica. Mentre la Lega sperava infatti in un accordo sul federalismo fiscale per i comuni, questa mattina si è riunito l'ANCI, l'associazione che riunisce appunto i comuni italiani, e il responso è stato un no. L'Associazione dei Comuni Italiani boccia la nuova bozza sul federalismo municipale presentata ieri dal ministro Calderoli. All'incertezza politica si somma l'incertezza tecnica, ha commentato in mattinata il sindaco dell'ANCI Chiamparino, che chiede tempo per discutere ed arrivare ad un'intesa. Gli articoli messi a punto da Calderoli prevedono tra l'altro una compartecipazione dei comuni all'IRPEF nella misura del 2%, l'introduzione di un'aliquota secca al 23% per i canoni di affitto libero, che scende al 20% per quelli concordati, una nuova tassa di soggiorno facoltativa fino a 5 euro al giorno per turista, sanzioni quadruplicate per chi non denuncia case abusive al catasto, con il 75% del ricavato che andrebbe ai comuni. Domani alle 18 scade il termine per la presentazione degli emendamenti che il governo valuterà nel fine settimana. Lunedì e martedì il testo finale e mercoledì 26 il voto. Se il parere della bicamerale sarà positivo, avverte il ministro la semplificazione, allora si potrà arrivare a fine legislatura. Ma è critico il senatore Finiano Baldassarri, il cui voto sarà determinante, perché dice: siamo ancora lontani da un federalismo serio in grado di reggere i prossimi decenni. Una bozza senza senso, quella di Calderoli, secondo il PD, perché è priva di numeri e scheda tecnica. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente dell'ANCI, Chiamparino, chiede ora un incontro urgente al governo, ma tant'è, come sentivate, il federalismo fiscale per la Lega è il nodo cruciale per proseguire la legislatura. Bossi è subito intervenuto, questo proprio mentre a sostegno del governo era stato formalizzato pochi minuti prima l'appoggio dei cosiddetti responsabili. Andiamo allora a sentire che quadro si va delineando da Elisabetta Fiorito. Sì, avanti malgrado tutto, malgrado lo stop dei comuni sul federalismo, l'asse tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi continua per proseguire la legislatura e approvare i decreti attuativi del federalismo. Ieri in un vertice a Palazzo Grazioli c'è stata di nuovo l'intesa tra Lega e PDL, tra Premier e i vertici della Lega, in primis Umberto Bossi. Grande assente però del vertice Giulio Tremonti, una possibile conferma della distanza tra il ministro dell'economia e Berlusconi. L'accordo prevede di andare avanti con il federalismo e attuare il prima possibile quello municipale in cambio della stabilità dell'esecutivo e di una possibile riforma della giustizia. Nel frattempo il gruppo dei responsabili continua ad andare avanti per sostenere il governo. Sentiamo Francesco Pionati. L'immagine di una legislatura affidata a una trattativa estenuante, logorante e continua con il polo degli sconfitti, cioè quello di Fini, Casini e Rutelli, oggi viene definitivamente archiviata. È un polo residuale che vuole e può e quando vorrà aggregarsi e aggiungersi, ma che non avrà nessun potere di condizionamento della maggioranza, per cui Berlusconi è libero da incubi o da preoccupazioni di questo tipo. E anche questa mattina dal PDL arrivano segnali sull'approvazione del federalismo municipale. Il governo va avanti con l'obiettivo di realizzare riforme importanti, spiega Antonio Leone del PDL. Dalla Lega risponde Federico Bricolo, l'alleanza Bossi-Berlusconi non si discute. Per il momento è tutto, poi studio. Questo dunque sentivate per quanto riguarda l'appoggio a Berlusconi ribadito dalla Lega, nonostante le tensioni di questi minuti per quanto riguarda il fisco municipale, ma è anche il terzo polo a muoversi. Andrea Viali. Sì Anna, è così, il terzo polo conferma in particolare la richiesta di sfiducia nei confronti di Bondi che era stata annunciata dopo i crolli di Pompei. Oggi UDC, Futuro e Libertà, API ed MPA hanno presentato alla Camera il testo della loro mozione che si affianca a quella di PD e Italia dei Valori. Con i tagli decisi dal governo Berlusconi la cultura italiana sta entrando in coma, ha spiegato il leader dell'API Rutelli, che ha comunque lasciato, diciamo, una porta aperta a Bondi. Sentiamo cosa ha detto Rutelli. O Bondi riesce sull'ultimo tratto di strada a ritornare sulla retta via, e dunque ripristina risorse per la cultura, per lo spettacolo, per il personale senza il quale fallisce tutto in Italia, oppure la nostra mozione di sfiducia andrà a destinazione con grande chiarezza e con grande forza. Ecco, a Montecitorio l'esame delle mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro della Cultura si terranno entro la fine di gennaio. Per ora dalla Camera è tutto. Grazie anche ad Andrea Viali. Questo il quadro politico, con ovviamente le indagini sulla vicenda Ruby e sulle serate di Arcole che vanno avanti. Spuntano anche le contraddizioni, alcune delle dichiarazioni rese in TV da Ruby vanno in direzione diversa dalle sue stesse intercettazioni o due altre dichiarazioni messe agli atti. E così sembrano cambiare il tiro in queste ore anche altri protagonisti. Una battuta che le dice: ma che stai facendo, pure sesso? No, no, a me non mi sfiora neanche. Il 7 luglio, interrogata, Caterina Pasquino ha messo a verbale che Ruby le confidava di essere molto amica del presidente, con il quale, si legge, dice di aver fatto sesso. Ora l'ex coinquilina, quella che ha denunciato la marocchina per furto, smorza i toni e riduce tutto a una battuta, come Maria Esther Garcia Polanco, soubrette di Colorado Caffè, dice di pagare un regolare affitto per la casa dell'Olgettina, data, secondo i PM, incomodato d'uso alle ragazze, e spiega poi con la beneficenza i soldi ricevuti da Spinelli, l'uomo delle finanze di Berlusconi. Certo che ho il numero del presidente, chiamavo il signore Spinelli, lui mi dava quello che avevo bisogno. Da una parte gli atti dell'inchiesta, intercettazioni, verbali, dall'altra dunque le dichiarazioni ai media. Versioni diverse corrono parallele sulle feste di Arcore e le sue ospiti, così ad esempio la stessa Ruby racconta di non essere mai stata più giorni di seguito ad Arcore, anche se lì invece è rimasto il suo cellulare, come provano le celle telefoniche. E se molte ora riportano il bunga bunga solo ad una barzelletta, a verbale un'amica della Minetti lo descrive come una discoteca con palo da lap dance e tanto di camerini per travestirsi. Tra gli ostacoli di questa complicata inchiesta dunque c'è anche discernere il vero dal falso, affiancare le dichiarazioni rese ai magistrati a quelle raccolte dalle indagini difensive. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Alle feste di Arcore e all'inchiesta sul caso Ruby vi anticipo, dedicheremo anche la puntata di questa settimana di Storiacce, sabato alle 13:15. E io saluto Nicola Piepoli, buongiorno. Pronto? Abbiamo una linea un po' disturbata. Piepoli? Eccoci. La situazione politica, dicevamo, quanto mai in evoluzione in queste ore, però vogliamo sapere un po' agli italiani come la vivono. Il caso Ruby davvero influenza i sondaggi politici? Ma senta, non influenza né nei sondaggi politici. A me influenzerebbe sentire notizie, per esempio, sulla scuola italiana, su quello che si fa in termini di investimenti di autostrade o di strade ferrate, alla costruzione degli aeroporti. Queste sono cose che interessano gli italiani. Avere più lavoro. Quanto non sposta voi nei sondaggi? Ripeti un attimo. Pronto? Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con una linea migliore. Nel frattempo noi invece andiamo avanti con un altro sondaggio del Censis Commercialisti. Per 6 italiani su 10 l'evasione fiscale negli ultimi 3 anni è aumentata, e quanto emerge da una ricerca presentata questa mattina, secondo la quale per il 44,4% degli intervistati l'evasione è il principale problema del fisco. Nello stesso tempo la grande maggioranza degli italiani giudica elevato il carico fiscale, la pensa così l'81% dei contribuenti. In tutto questo oggi è arrivato un monito dalla Banca Centrale Europea. Rischi e incertezze sulla ripresa economica in Europa. Rischi legati soprattutto alle tensioni sui mercati finanziari e ai rincari dei prodotti energetici. Gli avvertimenti giungono da Francoforte, dove la Banca Centrale Europea nel bollettino mensile richiama i governi della zona euro. Servono riforme strutturali tempestive, oltre al risanamento dei conti pubblici, soprattutto in quei paesi, e qui il riferimento implicito è all'Italia, che hanno subito una perdita di competitività. E in Italia l'Istat conferma che i segnali di ripresa non sono robusti e procedono in modo altalenante. Gli ordini del settore industriale a novembre sono scesi del 4,3% rispetto a ottobre. È la caduta più grave dall'agosto 2009. In leggero aumento il fatturato, più 0,2% mensile. Non va meglio per le dinamiche delle retribuzioni. La Banca Centrale Europea segnala in particolare il rallentamento dei salari fissati dai contratti collettivi in Germania e, in misura minore, in Italia. A livello europeo siamo ai minimi dal 1991. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riproviamo con Nicola Piepoli. Vediamo se la linea va meglio. Dicevamo, quanto si sposta, si stanno spostando i sondaggi politici in questi giorni? Un'ampia forchetta o parliamo di cose minime? Ma non si spostano. C'è anche un fatto che non li fa spostare, è che il mercato politico è un mercato che è diviso in due grandi aree, il centrodestra e il centrosinistra. Nell'area del centrodestra Berlusconi è sugli scudi, nell'area del centrosinistra Berlusconi non è amato. A questo punto queste due aree si bilanciano e fanno sì che a un certo momento ne scenda, ne salga il Presidente del Consiglio nell'opinione degli italiani. E così vale per le quote di mercato, cioè le intenzioni di voto sono stabili, erano 31.5 per la PDL, ammesso che si chiami ancora così, due settimane fa, erano 31.5 la settimana scorsa, sono 31.5 questa settimana. Insomma, è un mito un po' ormai da sfatare, cioè le vicende Rubi, le inchieste giudiziarie in realtà non spostano quelle che sono le... Sai che cosa sposterebbe voti? Sposterebbe voti un annunzio in cui si dichiara che si spendono 40 miliardi di euro in nuove strade in Sicilia, perché questo significherebbe lavoro per tutti. Certo, e quindi diciamo questi sono temi che in qualche modo i sondaggi hanno già macinato, insomma gli italiani hanno già macinato. E questi terzi poli, terze gambe responsabili che spuntano in queste ore, come li vivono gli italiani? Non le vivono, non hanno nessun elemento per viverle, né positivo né negativo, non esistono dal punto di vista dell'opinione. Un palazzo sempre più isolato in qualche modo. No, non è né isolato né nel centro della bufera, non esiste, è tutto qua, non abbiamo elementi per dichiararne l'esistenza dal punto di vista dell'opinione e del sondaggio. Certo, il palazzo esiste nel momento in cui decide per il benessere del paese o per il voto, e a quel punto ovviamente le pance un po' si muovono. Diciamo per tutto ciò che è creazione di ricchezza in questo momento in cui la gente si sente povera. E sentivamo... Ecco, quindi, diciamo un po', sono più i temi economici che interessano in questo momento, questo almeno secondo il vostro osservatorio. Grazie a Nicola Piepoli, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Abbiamo sentito anche le altre notizie, la BCE in primis. Voltiamo nuovamente pagina per parlare dell'Afghanistan. Rischia la paralisi l'alpino ferito nello scontro che l'altro ieri ha causato la morte del 36esimo militare italiano. La salma di Luca Sanna rientrata in Italia, l'altro ferito in condizioni molto gravi. Il prezzo che paga l'Italia è pesante, ci sono le parole del ministro La Russa a confermarlo. Il caporale Luca Barisonzi, ferito in Afghanistan dai colpi di un soldato afghano che ha ucciso Sanna, è dalla scorsa notte ricoverato all'ospedale di Ramstein in Germania. Rischia un blocco degli arti. Preoccupazione per lui che si aggiunge al dolore per la vita spezzata di Sanna. Una fitta pioggia per il ritorno in Italia della salma stamani all'aeroporto di Ciampino. Dalle 16 aperta la camera ardente presso il Policlinico Militare del Celio. Domani alle 10 i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La notizia degli ultimi minuti, ancora la maledizione di Kitzbühel per lo sci. Che è successo, Dario Ricci? Sì, buongiorno, c'è stata un'altra caduta drammatica sulla Strife, quella che è la pista più spettacolare, famosa e pericolosa del mondo, protagonista questa volta l'austriaco Hans Gruger, 29enne, 4 vittorie in Coppa del Mondo e anche parecchi podi nel suo palmarès, che è caduto nella Mausfalle, la trappola per topi, un salto cieco spettacolare e difficilissimo subito dopo la ripidissima partenza. Per Gruger la caduta con una forte contusione al petto, un trauma cranico, la perdita di conoscenza, l'immediato intervento dei soccorritori che hanno cercato di risvegliarlo senza avere per il momento risposte, quindi prova interrotta e atleta che è stato trasferito in elicottero prima all'ospedale di Kitzbühel e poi alla clinica universitaria di Innsbruck. Gruger ha anche battuto la testa e il corpo perdendo il casco di protezione, una caduta che riporta alla mente, Anna, quanto era accaduto 2 anni fa sempre sulla Strife ma nella zona del traguardo, quando a cadere era stato lo svizzero Daniel Albrecht, che fu tenuto ad Innsbruck in coma artificiale per 3 settimane e che è tornato a gareggiare appena 2 mesi fa, anche se solo in gigante, non certo nelle prove veloci ancora. Le notizie di oggi di GR24, no dei comuni alla bozza per il federalismo municipale, la Lega insorge, Bossi andiamo avanti, Chiamparino chiede di aprire un tavolo. A sostegno dell'esecutivo arrivano i responsabili, formalizzato il nuovo gruppo che appoggerà Berlusconi. Sci colpisce ancora la maledizione di Kitzbühel, caduta in prova per Hans Gruger, è grave in ospedale. È la Cina la seconda economia al mondo, certificato lo storico sorpasso sul Giappone. E allora cominciamo da qui, ricominciamo con Deborah Rosciani. Sì, cominciamo allora con la borsa, che questa mattina vive una seduta piuttosto indecisa, perché gli indici del vecchio continente sono partiti malino, ma tutto sommato intorno alla parità, poi si sono separate le strade degli indici del vecchio continente e hanno peggiorato progressivamente la loro seduta. Parigi e Francoforte, che adesso sono in calo dello 0,2 e dello 0,8%, Londra, da stamattina peggior piazza d'Europa, perde l'1,38%, Milano completamente per conto suo è arrivata a guadagnare quasi un punto percentuale per perderlo adesso tutto e segnare appena un più 0,3%. Hanno ripreso a correre tutti i titoli del settore bancario, mentre oggi le vendite piovono in maniera molto forte su tutta la galassia Fiat. Fiat SPA l'auto meno 5, Fiat Industrial meno 5, Exor meno 5,45%. Cosa succede? Che c'è stato un report di una grande casa di investimento che ha detto che tutti questi titoli sono da vendere e quindi il mercato ne ha approfittato. Poi l'agenzia di rating Fitch ha detto che i conti che il gruppo presenterà il 27 gennaio non dovrebbero avere alcun impatto sul giudizio sul debito appunto dei titoli, ma in ogni caso c'è un bel po' di fermento. L'euro sul dollaro quota 1,34,95, il mercato guarda oggi anche le indicazioni cinesi, che so sarà il prossimo tema appunto, che di appunto Deborah, andiamo subito lì. Andiamo allora subito lì, perché dicevamo, Deborah Rosciani, la Cina ormai è certificata la seconda economia al mondo. Sì, l'economia cinese è cresciuta nel 2010 del 10,3%. Per la verità queste stime erano già state preannunciate ieri, oggi confermate dalla banca centrale cinese, mentre anche i prezzi al consumo hanno continuato a crescere, più 3,3%, perché ho messo anche il dato dell'inflazione, perché alla luce di tutti questi risultati oggi il mercato risponde negativamente ai dati cinesi, perché probabilmente ci sarà una stretta monetaria per raffreddare l'economia. Sono cose incredibili se giudichiamo quanto invece molto meno cresce l'economia per esempio dell'eurozona, ma in ogni caso questo è anche l'aspetto a cui guarda il mercato. Sostanzialmente il PIL cinese ha superato quello del Giappone nel secondo e terzo trimestre dello scorso anno e però appunto tutto questo peraltro non frena lo yuan, la divisa cinese, che continua a correre sul dollaro nonostante anche gli auspici espressi nel vertice americano appunto cinese in questi giorni dal presidente statunitense Barack Obama. Anna. Grazie a Deborah Rosciani. E proprio nelle ore in cui veniva certificato il sorpasso, il presidente cinese Xi Jinping è a Washington, dove ha incontrato il presidente americano Obama. Sentiamo allora l'analisi di Mario Platero. Non che la montagna abbia partorito il topolino, diciamolo, ma di certo la visita di Stato di ieri di Hu Jintao a Washington è stata definita più dalla politica dei piccoli passi, dalla continuità in materia commerciale, valutaria, di diritti umani, che dalle grandi svolte. Insomma, un po' da copione. La piattaforma comune, solida, enunciata da tutti e due i leader, peraltro, resta quella della cooperazione nel rispetto reciproco, prioritaria su tutto il resto. È la piattaforma del resto sulla quale i due paesi hanno costruito un rapporto economico che ha portato allo sviluppo in Cina, ha consentito all'America di raggiungere un livello di esportazioni verso Pechino che ormai è pari a 100 miliardi di dollari all'anno. Detto questo, Barack Obama, devo dire, è stato ieri molto più deciso che in passato nell'ammonire la Cina. Barack Obama ha parlato molto di diritti civili, di libertà di stampa, di espressione, di democrazia, di fianco al presidente Hu Jintao. Si diceva che forse Obama non avrebbe espresso pubblicamente alcune di queste posizioni che non piacciono alla leadership cinese. Bene, l'ha fatto. Detto questo, su alcune tematiche fondamentali c'era disaccordo prima di questo vertice, continuerà ad esserci dopo. Ritroveremo Mario Platero alle 13.45, vi ricordo America 24. Andiamo ora invece in Tunisia, dove ci sono state anche oggi manifestazioni. L'inviato Alberto Negri. Eccomi, ci troviamo qui in questo momento ad Avenue Bourguiba, davanti a un'ennesima manifestazione che chiede le dimissioni di tutti i membri dell'RSD dal governo, del vecchio partito e del vecchio regime, chiede insomma che il partito venga sciolto e abolito, che sia fatta tabula rasa del vecchio regime in Tunisia. Le manifestazioni si stanno svolgendo anche in altre parti della Tunisia, per esempio a Monastir è stata bruciata una sede del partito di Ben Ali. Intanto il governo cerca di tenere insieme i pezzi. Il primo ministro Ghannouchi e lo stesso Presidente della Repubblica si sono dimessi l'altro giorno dal partito di regime, il partito di Ben Ali, e adesso anche tutti gli altri ex hanno dato le dimissioni, in qualche modo cercando di rifarsi una facciata di fronte all'opinione pubblica. Certamente sono momenti di transizione difficili ed è veramente complicato capire in che modo questo paese potrà essere governato nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Grazie ad Alberto Negri. Torniamo però alle vicende italiane. C'è un flash proprio di questi minuti. Parla Umberto Bossi. Senza il federalismo si vota. Sono d'accordo con Berlusconi. Così le parole di Bossi pochi istanti fa. Naturalmente continueremo a parlarne. Torniamo però a Roma, perché sono state presentate anche intanto le celebrazioni, gli appuntamenti per le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, restauri, concerti, mostre, manifestazioni sportive, fittissimo il calendario di eventi con cui l'Italia festeggerà i suoi 150 anni, due le date da tenere in mente: il 17 marzo, giorno in cui 150 anni fa fu proclamato il Regno d'Italia, Napolitano parlerà al Parlamento in seduta comune e visiterà l'altare della patria, successivamente il Pantheon dove è sepolto il primo re d'Italia. Altra giornata chiave, il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, arriveranno in Italia tutti i capi di Stato dei 26 paesi europei, Stati Uniti, Russia e dei paesi a più alta emigrazione italiana. Questo per quanto riguarda la parte istituzionale. Non mancheranno poi eventi più a carattere nazionale popolare, tra cui notti dei colori, molti comuni italiani, concerti, spettacoli, mostre che racconteranno la storia dell'Unità d'Italia. In particolare molti eventi riguarderanno il Piemonte e Torino, dove riapriranno il Museo del Risorgimento, il Museo dell'Automobile completamente rinnovati, dove verrà ricostruito il Salone del primo Senato italiano. Solo per Torino il budget per le celebrazioni è di 50 milioni di euro. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Naturalmente altri particolari nelle prossime edizioni. Noi invece parliamo ora di calcio, della rimonta che sembrava impossibile, quella dell'Inter. La domanda è: chi la ferma? La rimonta dell'Inter, pur con qualche incertezza, procede a passo spedito. Quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Cesena e quarto posto in classifica con gli stessi punti della Roma. Il Milan, la lepre, è quindi quasi a tiro, visto che l'Inter deve ancora recuperare con la Fiorentina. Però non tutto brilla. Il successo con il Cesena non è stato travolgente, visto che i romagnoli non sono una corazzata e per giunta hanno giocato in 10 l'ultimo quarto d'ora. Anche Leonardo lo ammette. Partita difficilissima, e sicuramente anche l'infortunio di Milito è normale. Il fatto di cambiare così presto, dopo essere partito così bene, dà alla squadra un po' quel momento di assestarsi. Però è una partita di grande sofferenza, un sacrificio enorme da parte di tutti, per quello credo che sia una vittoria importantissima. Detto questo, però, il Milan comincia a sentire il fiato sul collo. La muta nerazzurra abbaia e la lepre rossonera si guarda indietro preoccupata. Già in passato, nel 64-65 e nel 70-71, ci furono due sorpassi. La prima volta con Elenio Herrera, la seconda con Invernizzi. 7 e 6 punti di distacco, quando una vittoria valeva solo 2 punti. Precedenti che fanno storia e che al Milan non hanno dimenticato. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche da Anna Migliorati è tutto. Ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.